Cari amiche, cari amici, eccoci qui, Maridia ai microfoni nuovamente, molto contenta perché continuo a parlare di musica, buona musica, una lunga attesa, oserei dire, perché volevo già intervistare questa band qualche tempo fa, ma non ci sono riuscita. Allora sono oltremodo contenta perché riesco a farlo, questa sera. Sono in compagnia di Luca Bergia, e allora avrete già capito di chi parlo, uno dei fondatori dei Marlene Kunz. E Luca, ovviamente Marilena non poteva non intervistare Marlene. Marilena e Marlene, certo, il passo è breve, anche se l'attesa è lunga, il passo è breve. Assolutamente. Allora, è la prima volta che sei nostro ospite, quindi mi piacerebbe ovviamente ripercorrere un po' con te le vostre origini. Come nasce la vostra band? Ma la nostra band è nata più di 25 anni fa. È nata fondamentalmente dalla voglia di mettersi in gioco, di fare qualche cosa che normalmente non riuscivamo ad ascoltare nelle radio. Cioè, forse è anche un po' sbruffona come cosa, però sai, quando sei un po' giovane magari c'hai anche un po' questa spavalderia un po' sbruffona che ti aiuti, ti spinge a fare cose anche un po' pazze. Io, Riccardo e Cristiano veniamo dalla provincia d'Italia, da una delle tante province d'Italia, da Cuneo, che è un paese a sud di Torino, vicino ai Monti, un luogo dove non ci sono molti stimoli culturali, dove comunque vivevamo la fascinazione per la musica. E quindi quando vivi in un luogo che non è una grande città, non è una metropoli, per cui ti investe magari di stimoli e di tante attività culturali o di concerti che puoi vedere, eccetera, allora gli stimoli sei un po' costretto a crearteli. E quindi è un po' nato in questo modo. Io ho iniziato a suonare con Riccardo, all'inizio c'è stato un primo bassista e cercavamo un cantante. Io frequentavo un locale dove Cristiano faceva anche il DJ, lui invece suonava già da un po' con un gruppo che aveva partecipato ad Arezzo Wave, anche stato selezionato, quindi aveva già una certa esperienza. E l'ho un po' corteggiato dopo un po' di no, perché lui era stato. Aveva un po' abbandonato la musica, aveva lasciato il suo gruppo, era una fase un po' difficile per lui. Ha accettato il mio invito dopo un po' di tempo e così sono nati Marlene. Con una passione comune, la voglia di fare rock, anche un po' noise, un po' sporco. All'epoca ci piacevano molto i Sonic Youth. Amavamo e amiamo ancora Nick Cave, quindi insomma un po' di influenze che ci hanno un po' spinto in questa direzione e siamo stati i primi poi alla fine a cantare in italiano su delle musiche che sono appunto molto rock e siamo stati veramente i primi a farlo e questo poi ha spinto anche altri a seguire questa strada. Parlavi di stili, parlavi di genere, però al di là di questo mi sembra di capire, che anche i temi di cui avete trattato nelle vostre canzoni ci sono tanti valori. Che cosa è cambiato nel tempo rispetto all'approccio che, consacrate alle canzoni, ai testi? Ma allora, che cos'è cambiato rispetto ai testi? Sarebbe meglio chiedere a Cristiano che è l'autore dei testi. Però quello che posso dirti è che no, cioè, la nostra musica, quello che facciamo e anche i nostri testi rispecchiano quello che noi siamo adesso. Cioè, un testo come Festa Mesta, Cristiano non potrebbe più scriverlo perché non, cioè, non gli capita più di andare a delle feste e incazzarsi perché è una festa del cazzo. E quindi rispecchia, cioè, la nostra musica, la nostra arte rispecchia quello che siamo noi adesso, non c'è nessuna voglia di ammiccare agli anni che furono, non c'è nessuna sensazione nostalgica in quello che facciamo, cerchiamo sempre di di guardare avanti. E questo mi sembra di capirlo, perché sono tante piacevoli novità. 25 anni però sono lunghi, sono tanti, quindi c'è un momento, oppure più di uno, che ti piacerebbe condividere con i nostri ascoltatori, con quelli che magari già vi conoscono? Ma di cose che sono successe in questi 25 anni sono successe veramente tantissime. I ricordi importanti, ricordo due concerti dove negli anni 90, dove aprimmo i Sonic Youth, e loro per noi erano, insomma, e sono ancora adesso dei maestri. Mi ricordo l'emozione prima di salire sul palco, il momento in cui siamo anche riusciti a conoscerli, Kim Gordon, Thurston Moore, Ranaldo. Poi ricordo ad esempio la bella collaborazione che facemmo con Paolo Conte durante il disco 1 del 2007. Lui ci donò in un pezzo, no, di quel disco lì che si chiama Musa, una sua suonata di piano, e poi ci lasciò anche un piccolo aforisma che ci dedicò. Insomma, Paolo Conte è uno dei mostri sacri, no? Assolutamente. Monumenti viventi della musica italiana e internazionale. Quindi. E poi tante collaborazioni, Skin, degli Scancananzi, ma ricordo anche con piacere Robellis, batterista, produttore di PJ Harvey, con il quale registrammo a Berlino Senza Peso. E in quel disco intervenne anche Warren Ellis, violinista di Nick Cave. Insomma, emozioni, tante sensazioni, tante belle emozioni, tanti anche scambi anche proprio di stimoli proprio. E questo lo posso immaginare. Allora, veniamo invece al vostro album. Correggimi se sbaglio, questa è un'informazione che ho trovato mentre preparavo l'intervista oggi pomeriggio, e ho saputo che avete praticamente diffuso il testo del brano che dà il titolo al disco, invitando band e artisti a musicarlo. I tre vincitori... Esatto, esatto. Allora, come nasce questa idea? Perché l'ho trovata davvero simpatica e carina. Guarda, è nata in un modo molto, molto spontaneo, perché vabbè, noi è un po' di anni che attraverso la nostra pagina Facebook interagiamo con i nostri ascoltatori. Cristiano tempo fa si era inventato questa rubrica, il testo della settimana, dove lui postava uno dei nostri testi del nostro repertorio. E aveva notato appunto che c'era un bel seguito, cioè questi testi erano molto visionati, ed era una attività che piaceva al nostro pubblico. Parallelamente ci sono anche delle occasioni, dei rituali, che sono ad esempio la canzone del mattino, la canzone della sera, che anche queste hanno fidelizzato molto nel nostro pubblico, è una delle iniziative che il nostro pubblico sta apprezzando. Quindi siamo partiti da questa idea di Cristiano, da questa iniziativa, e lui ha suggerito: ma perché invece di mettere un testo dei nostri dischi di repertorio, non mettiamo un testo del nostro prossimo disco, di questo disco che è uscito poco fa? Abbiamo pensato tutti che fosse una bella idea, e immediatamente ci è venuta l'idea di: ma perché non chiediamo di musicarlo? Mm-hmm. Musicare un testo inedito potrebbe essere una cosa carina. Per cui abbiamo invitato chiunque ne avesse avuto voglia, musicisti, ma dai cantautori alle band, a chiunque avesse avuto voglia di cimentarsi in questo esperimento di creatività. Non era un contest, non aveva nessun tipo di finalità di questo tipo. Abbiamo, così per stuzzicare un po' anche la creatività, abbiamo messo in palio poche cose. Abbiamo intanto coinvolto alcune testate giornalistiche specializzate su web, come Onda Rock, Rock All, On Stage e Rock It. Abbiamo chiesto ad alcuni giornalisti di queste testate, appunto, di selezionare i primi tre, le tre migliori versioni di questo brano, i quali avrebbero poi potuto aprire la nostra data di Milano, che sarà l'11 marzo. E con nostra grandissima sorpresa, noi non ce l'aspettavamo questa cosa, sono arrivate 320 versioni. Complimenti. 320 versioni di un brano inedito. Probabilmente anche una roba da Guinness dei primati. Assolutamente. Ci stiamo anche informando. No, ma la cosa bella, veramente, al di là di quello, è stato proprio intanto vedere l'affetto, la passione, l'energia che questi giovani artisti riservavano nei tuoi confronti. Questa è già una cosa bellissima. Ma poi sono arrivate delle versioni veramente interessanti, quello che sorprende è anche proprio la varietà, perché non sono arrivate solo versioni rock di un certo tipo, sono arrivate versioni elettroniche, puramente elettroniche, versioni quasi jazzistiche, anche versioni molto, molto ironiche, molto divertenti, anche robe pop, cioè veramente sono arrivati molti approcci diversi, e quindi insomma l'esperimento è riuscito molto bene, perché comunque si vede da come un testo possa poi stimolare creativamente la creatività in direzioni totalmente diverse. Assolutamente. Toglimi una curiosità, immagino che sia stato anche difficile scegliere. Allora, diciamo la scelta, la grossa responsabilità l'abbiamo demandata ai giornalisti, proprio per non avere quel tipo di responsabilità. Poi invece noi ci siamo divisi gli ascolti e abbiamo deciso di selezionare a testa 10 di queste versioni, che renderemo visibili sul nostro Facebook, quindi le inseriremo come canzone della sera. Questa proprio perché crediamo che ci sono delle versioni che magari non vinceranno l'apertura del nostro concerto, però sono assolutamente degne di visibilità e per dare anche appunto una vetrina a queste band, a questi giovani artisti. Trovo che sia un'iniziativa lodevole, anche perché soprattutto qui a Bruxelles, ma questo immagino sia vero anche in Italia, c'è ancora voglia di far musica, quindi di mettersi in gioco e in discussione. Non ti chiedo di parlarmi dell'album, perché lo scopriremo sabato sera, però ho una domanda, almeno per presentare l'album. Mi sembra di capire, da quello che ho potuto ascoltare, che ci sono tanti temi di cui vi occupate, dalla politica alla società alla comunicazione. Però c'è un messaggio che magari vorresti lanciare a partire da quest'album agli amici? Ma in realtà i nostri messaggi non sono quasi mai veramente politici. Adesso ultimamente magari qualche testo sì, tocca più il contemporaneo, quindi anche la situazione politica, ma veramente noi cerchiamo di fare musica, però abbastanza prescindendo dalla politica, nel senso che non ci piace molto legare il messaggio politico a quello che facciamo, perché non ci piace l'idea che la gente possa ascoltarti perché la pensa come te politicamente. Certo. Non ci piace. Invece quello che posso dire di questo disco è che ci stanno anche dicendo in molti, che ha una sua carica, una sua potenza proprio quasi liberatoria. Ed è secondo me una cosa molto bella da riscontrare nella musica. Oltretutto, pensando al nostro esordio discografico, Catartica, quindi anche lì la liberazione, pensare dopo 20 anni un disco che comunque continua a dare quel tipo di sensazioni lì, ecco, è una cosa che mi piace molto. Allora, ancora una curiosità, mi devi scusare, giornalisticamente sono curiosa. il 17 febbraio, correggimi ancora se sbaglio, in una quarantina di sale italiane del circuito dei Space è stato lanciato il film documentario di Sebastiano Luca Insinga, Marlene Kunz, complimenti per la festa. Allora, avete potuto contribuire a questo film invece, oppure è proprio tutta opera del regista, è stato lui ad occuparsi della prospettiva, della storia, delle informazioni, insomma, raccontaci un po', è una storia divertente. Allora, devo dire anche qui, la cosa molto, molto bella è che questa idea non è partita da noi, nel senso che non siamo stati noi a commissionare questo film, è stata un'idea di questi due ragazzi molto giovani e molto in gamba, Sebastiano Luca Insinga e Simone Carnioni, che avevano già in passato collaborato con noi, hanno avuto questa idea e l'hanno portata avanti veramente con una determinazione, una passione veramente particolare. L'idea, la narrazione, la fotografia, insomma è tutta farina del loro sacco. Noi ci siamo lasciati condurre da loro perché comunque c'era fiducia, visto che abbiamo collaborato con loro in passato. E questo film è un film che parla della nostra storia dall'inizio fino all'esordio discografico di Catartica. E racconta tramite interviste a noi, ma soprattutto tramite a persone esterne, quindi artisti, quindi, mi viene in mente Ferretti, Federico Fiumani, Gianni Maroccolo, il nostro primo bassista dell'epoca, anche giornalisti come Alberto Campo, Federico Guglielmi, e anche materiale di repertorio. Insomma, c'è tutto un viaggio molto, molto ben narrato dove ci sono poi anche dei salti temporali, perché poi loro ci hanno seguito durante il tour celebrativo di questi 20 anni di Catartica, dove abbiamo fatto 30 date in giro per l'Italia. Loro ci hanno seguito e inframmezzato a queste interviste, a questa narrazione, ci sono anche i momenti di questi concerti, quindi è una summa di concerti, è un concerto unico ma fatto in luoghi e in situazioni diverse. Devo dire che ci sono anche poi momenti di curiosi, perché loro ci hanno seguito durante i viaggi, negli alberghi, nei ristoranti, in situazioni anche più divertenti. E viene fuori anche il nostro aspetto anche un po' così, un po' più ironico e scanzonato. Devo dire che appunto è stato il lavoro che hanno fatto sulla narrazione, ma soprattutto anche sulla fotografia e sulla cura dell'audio sono veramente eccellenti. Bene, credi che ci sia la possibilità durante il concerto magari di mostrare un po' del film, oppure dobbiamo venire in Italia? Non credo, intanto penso che, allora, intanto verrà distribuito dalla Feltrinelli, quindi credo che anche dall'estero chi vorrà potrà acquistarlo online dalla Feltrinelli. Non credo che ci siano le condizioni per proiettarlo al Bucarest, purtroppo. Però era una curiosità. Allora, chi ci sarà con te a Bruxelles? La banda al completo? Siamo io, Riccardo Cristiano, e il nostro bassista che ormai ci segue da un po' di anni, Luca Saporiti, Lagash. Uh-huh. Saremo noi, insomma, sarà un concerto molto, molto rock, molto potente, preparatevi. Il pubblico brusselese già vi conosce, quindi credo che per tutti quelli che vi conoscono avranno però veramente... Diciamo che con questo disco tiriamo fuori la parte un po' più Kunz e meno Marlene, quella un po' più rabbiosa, ecco. Dati i tempi che corrono, lo capisco. Ecco. Luca, ancora una domanda, siamo in conclusione, prometto, perché so che devi andare. C'è un saluto, oppure c'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti indirizzare attraverso i microfoni di Radio Alma, brussellando? Queste sono le classiche domande a cui non so mai rispondere. Davvero, davvero, vi aspetto, ecco. venite venite a vedere questo concerto, perché secondo me sarà una bella botta, e anche a livello proprio di intensità, sarà un concerto potente ma anche intenso. Allora, ricordiamo i nostri amici all'ascolto, sabato 27 febbraio al VK, organizzato dai nostri amici di Beat. Finalmente lo so pronunciare, sai Luca, imparare a pronunciare correttamente è stata un po' una battaglia, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi per maggiori informazioni sia sul sito Beat Live oppure sul VK Concert, a partire dalle 19.30, e ricordiamo, mi fa piacere, che i Marlene Kunz saranno preceduti dalla band Yoko Syndrome e da Ambulance, spero di pronunciarlo bene, quindi, e poi i Marlene in concerto a partire dalle 21.40. Quindi Luca, avremo sicuramente modo di conoscerci personalmente anche a Bruxelles sabato. Benissimo, perfetto, e ti auguriamo veramente un ottimo concerto, e a presto, in bocca al lupo. E a presto, grazie, ci vediamo sabato allora. Ciao ciao a tutti.